GR Europa. Ancora un nulla di fatto nei colloqui tra capi di governo serbo e kosovaro organizzati a Bruxelles alla ricerca di un accordo per la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. L'annuncio è arrivato in nottata dal capo della diplomazia europea, Catherine Ashton. Today has been a very long and intensive day. We sought to bring together all of the different. È stata una giornata molto lunga e intensa, spiega Catherine Ashton, che sentite in sottofondo. Ho detto la volta scorsa che si è vicini ad un accordo, che le divergenze erano piccole ma profonde. Oggi posso dire con molta fiducia che le divergenze sono piccole e molto superficiali. Insomma, Bruxelles spera ancora in un'intesa entro lunedì, quando il capo della diplomazia europea, la Ashton appunto, illustrerà al Consiglio dei ministri degli esteri a Lussemburgo il suo rapporto sui progressi nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Naturalmente questo tema sottintende quello più ampio dell'allargamento a sud, cioè di quei paesi che ancora non fanno parte dell'Unione, che potrebbero entrare a far parte dell'Unione in un futuro prossimo. Di questo si è discusso nella sessione plenaria del Parlamento europeo oggi a Strasburgo. I deputati hanno infatti votato le relazioni su Turchia, Montenegro, Serbia e Kosovo preparate dalla Commissione Affari Esteri. Allora sentiamo com'è andata da Fiorello Provera, Lega Nord, vicepresidente Commissione Affari Esteri, al microfono di Maria Luisa Pezzali. C'è stato un accordo, direi, pressoché generale, salvo qualche riserva, una di queste è la mia, sulla filosofia politica in generale di allargamento che è stata fatta proprio praticamente dal Parlamento europeo, cioè di acquisire sempre nuovi Stati membri, di proseguire in una politica di partnership e poi naturalmente di membership, che è onnivora ma non tiene conto di alcuni fatti reali, di alcune difficoltà obiettive che abbiamo davanti. La prima tra tutte è quella del bilancio, quindi delle risorse necessarie all'allargamento. Per il 2013 è previsto per questa politica di allargamento un esborso di 1 miliardo e 85 milioni di euro. Tenendo conto del fatto che ci stiamo avvicinando al tetto dei 20 miliardi di deficit di bilancio, io mi chiedo dove si prenderanno queste risorse. Siccome le risposte sono soltanto due, o si fanno ulteriori tagli alla spesa o si mettono nuove tasse, ecco, non vedo delle prospettive particolarmente favorevoli per il cittadino europeo e per le sue tasche. Insomma, il voto passa, quello della mozione, ma i problemi restano. Maria Luisa Pezzali ha sentito anche Pierantonio Panzeri, PD, membro anch'egli della Commissione Affari Esteri. È indubbio che il tema della crisi economica pesa maledettamente. Noi dobbiamo avere un rapporto molto chiaro, particolarmente con le popolazioni di questi paesi, che ovviamente sognano, immaginano che l'entrata in Europa sia per loro sostanzialmente uno sbocco positivo, ma dobbiamo tenere conto che non sono solo le questioni economiche e sociali quelle che contano, contano anche le questioni democratiche, perché questi paesi, la loro trasformazione e il rafforzamento delle strutture democratiche in questi paesi è per noi essenziale proprio per evitare sostanzialmente che abbiano una deriva che oggettivamente può diventare pericolosa e le conseguenze le pagherebbe in ogni caso l'Europa. Il nostro paese, tra le altre cose, ci divide semplicemente il mare Adriatico da tutti questi paesi, quindi per noi è di grande interesse sotto tutti i profili. Posizioni divergenti, dunque intanto, come vi ho detto, il Parlamento europeo ha dato voto favorevole, ma naturalmente tutti i temi, tutti i nodi restano sul tavolo. Con questo abbiamo concluso. Filippo Aureggi in regia, Gigi Donnelli al microfono. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.